in primo piano. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Il tema centrale su tutti i quotidiani oggi è inevitabilmente l'accordo finale al G20 di Londra, alla grande riunione che ha messo insieme i governanti dei 20 paesi economicamente più importanti del mondo. E le notizie sembrano positive. Accordo tra i grandi contro la crisi, titola il Corriere della Sera con grandissima evidenza. La Repubblica lo segue, 1.000 miliardi contro la crisi, miliardi di dollari in questo caso. Accordo a Londra, più poteri al Fondo Monetario Internazionale e tetto ai bonus dei manager. La Stampa, contro la crisi 1.100 miliardi, dal G20 altri finanziamenti al Fondo Monetario e ai paesi poveri, impegno per nuove misure e ovviamente forte recupero delle borse mondiali. Voci più critiche, in qualche maniera inevitabili, arrivano dal Manifesto, che titola Alimentazione Forzata, e cioè prende in giro questa nuova iniezione di dollari per rilanciare i commerci e per salvare gli stati a rischio bancarotta. Il G20, scrive il Manifesto, si chiude con un compromesso che consegna al Fondo Monetario Internazionale 1.100 miliardi di dollari e promette una stretta sui paradisi fiscali, ma al terzo mondo le briciole. È anche Libero, manifesta una qualche criticità nei confronti dell'accordo. A lei si stampano soldi, titolo A. Pagina piena, arriva una montagna di denaro in aiuto ai paesi in crisi, si batte moneta con il rischio di innescare l'inflazione, ma al momento, scrive Libero, questo è il male minore. Il commento più puntuale a quel che è accaduto a Londra, in questa grande riunione, viene dal Sole 24 Ore, una corrispondenza di Adriana Cerretelli. Leggiamo: non è stato un vertice facile, il titolo è Un successo senza vinti né vincitori. Fino all'ultimo ha rischiato i tempi supplementari e ci sarebbero stati se l'americano Barack Obama non fosse intervenuto a mediare tra gli instancabili litiganti della giornata, il francese Nicolas Sarkozy e il cinese Hu Jintao, divisi sui paradisi fiscali. Alla fine però l'incontro tra i magnifici 20, che insieme fanno l'85% del PIL, del prodotto interno lordo mondiale, si è concluso in gloria, oltre ogni previsione, con un accordo che triplica le risorse del Fondo Monetario Internazionale e mobilita in tutto altri 1.100 miliardi di dollari a sostegno dell'economia mondiale, credito, crescita e occupazione, commercio e sviluppo dei paesi più poveri, con un impegno a orchestrare una politica di espansione economica che alla fine del 2010 toccherà i 5.000 miliardi di dollari. Con la fissazione di una rete di inediti paletti e interventi regolamentari per l'intero settore finanziario, compresa la fine dell'era del segreto bancario. Dai paradisi fiscali agli hedge fund, dalle norme contabili e requisiti di capitale, delle banche, dalle agenzie di rating alle super remunerazioni dei manager, la musica è destinata a cambiare, con la promessa infine di resistere al protezionismo, ribadendo l'impegno a concludere il Doha Round, che è l'accordo per il commercio nel mondo, i negoziati per la liberalizzazione, liberalizzare gli scambi mondiali. Nonostante le diversità di culture e di interessi che raccoglie al proprio interno, il G20 è dunque riuscito a lanciare da Londra un'azione univoca e concreta per far ripartire il motore bloccato dell'economia mondiale dovunque, provando al tempo stesso a fondare un nuovo ordine finanziario, attaccando le radici della grande crisi per evitare che si ripeta in futuro. Quindi toni decisamente positivi, se non entusiastici. Sperando che non venga interpretata come in debita pubblicità, segnalo che Economy, in edicola da oggi, al tema del segreto bancario, che è uno dei punti fondamentali degli accordi stabiliti a Londra, dedica la sua copertina proprio al segreto bancario e fiscale, con 13 schede sui paesi più frequentati, diciamo così, anche dagli italiani. È finita l'era del segreto bancario? Segnale il Sole 24 Ore, così il comunicato del G20 ha sancito il risultato più importante del vertice di Londra, con la pubblicazione di una lista nera di paradisi fiscali e una grigia di stati poco trasparenti, tra cui Svizzera, Austria e Belgio. Vi dicevo di Economy, vi segnalo oggi due grandi settimanali, i due principali news magazine italiani che sono in edicola, L'Espresso e Panorama. Panorama dedica la sua copertina al tema a cui è già dedicato la precedente, con grande successo, addirittura una ristampa per un esaurito in edicola, vi assumo io, e c'è Luisa Todini, presidente del gruppo industriale Umbro delle costruzioni, Todini per l'appunto, che in particolare cerca 400 persone da assumere, ma la copertina, così come la precedente di Panorama, è dedicata alle aziende che offrono migliaia di posti di lavoro e quindi contiene al suo interno una serie di schede con 2000 offerte di lavoro. L'Espresso invece, il concorrente del gruppo Repubblica, dedica la sua copertina, una bella foto, a una nuova lettura dello stress. Scoperta, l'ansia fa bene. È la malattia del secolo, scrive l'Espresso, con la crisi economica non risparmia nessuno, ma ora i medici rivelano un po' di stress, ci aiuta a vivere. Torniamo ai temi economici. Sui giornali oggi ci sono anche altri risultati del G20, ma non solo, anche del taglio dei tassi di interesse deciso ieri dalla Banca Centrale Europea. Hanno portato la decisione dei banchieri europei, è stata quella di far scendere il tasso di interesse all'1,25%, e addirittura si prevede che nella prossima riunione della BCE di Francoforte, a maggio, il tasso verrà ancora fatto scendere all'1%. Il risultato è che tutte le borse, le principali borse del mondo, sono cresciute imponentemente. Un attimo solo, ecco qua, vediamo sul Sole 24 Ore. Le decisioni del G20 convincono le borse, che hanno chiuso in forte rialzo. Wall Street, il Dow Jones, l'indice principale, ha guadagnato il 2,79%, lo Standard & Poor's solo il 2,87%, il Nasdaq il 3,28%. I titoli finanziari hanno beneficiato anche delle decisioni dell'autorità contabile americana di allentare le norme sul fair value, fornendo così un aiuto ai bilanci delle banche. Un titolo, forse il titolo che più di ogni altro ha subito un'impennata in tutto il mondo è stata la Fiat, che in borsa ieri è cresciuta del 27%, non era mai successo in una sola seduta. Fiat è stata acquistata a piene mani, sono stati scambiati 155 e passa milioni di azioni, il 14,2% del capitale ordinario. Ovviamente in questo caso non è tanto il G20 o la decisione della Banca Centrale Europea di tagliare i tassi, ma è la scommessa dell'intesa con Chrysler, che potrebbe collocare la Fiat tra i soggetti più importanti. E sono anche il risultato, l'impennata del titolo è frutto anche dei buoni risultati di vendita in Germania, con un boom dell'immatricolazione del 218,7%. Intanto il negoziato con Chrysler, a cui Obama ha subordinato la concessione di 6 miliardi di dollari per la casa americana, prosegue, e ieri Sergio Marchionne si è incontrato a Washington con il numero uno di Chrysler, Bob Nardelli. Ieri è stato anche il giorno di Brunetta, perché il ministro della pubblica amministrazione ha avuto un exploit che è stato molto apprezzato dai mass media per la sua concitazione. Brunetta vieta lo shopping alle statali, titola Libero in prima pagina. A corto di voti e di intelligenza, la sinistra resta l'indignazione ipocrita verso chi dice verità banali ma politicamente scorrette. Appunto questo è successo ieri a Brunetta, il quale, tanto per cambiare, non ha fatto nulla per evitarlo, tanto da trovarsi a un certo punto ai ferri corti pure con la sua collega di governo Mara Carfagna. A un convegno sulle pari opportunità, davanti a una platea quasi tutta femminile, Brunetta ha denunciato dal palco una delle principali storture del pubblico impiego, che vede molte donne nella duplice veste di defraudatrici e vittime. Non voglio più, ha detto il ministro, che le donne scappino dai posti di lavoro per andare a fare la spesa e poi tornare a casa alle 13:30 con le buste in mano, ha detto il ministro per la pubblica amministrazione, mentre si levava qualche fischio dalla platea. Una sfida alle donne? Per Brunetta è l'esatto contrario. La lotta all'assenteismo è una lotta di liberazione per le donne, ha detto il ministro. Fare finta di essere malate per accudire i mariti, per accudire la famiglia, vuole dire buttare via la propria dignità professionale e la propria deontologia. Così è partito allestito il coro degli scandalizzati, con Rosi Bindi che dice che Brunetta usa un linguaggio vecchio e maschilista, la senatrice del PD Vittoria Franco lo definisce un uomo profondamente misogino e l'immancabile responsabile per le pari opportunità della CGIL denunciare un vero e proprio attacco sessista. Anche la ministra Mara Carfagna, ministro per le pari opportunità del governo Berlusconi, per un momento è sembrata allinearsi quando ha chiesto di non cadere in facili provocazioni alle donne presenti al convegno, a quale aveva appena parlato insieme con Brunetta. Avrete sicuramente sentito in televisione la ripetizione del è così, è così, è così di Brunetta, sicuramente il tema farà ancora discutere. Adesso vi lascio al traffico e ci sentiamo subito dopo. In primo piano. Ben ritrovati per la rassegna stampa di Radio 24. Cambiamo tema. Ve ne propongo uno che a me sta particolarmente a cuore e che è trattato con grande evidenza da Repubblica oggi a pagina 17, ed è il tema misconosciuto dell'anagrafe pubblica degli eletti lanciato dai radicali e appoggiato da gran parte del Parlamento, almeno a parole. Stipendi, affitti e proprietà online, tutti i redditi dei radicali, ichino, ma il Parlamento sta insabbiando la legge. Leggiamo. La vicepresidente del Senato, l'articolo è di Concetto Vecchio. La vicepresidente del Senato Emma Bonino, tolta la parte dell'indennità devoluta alla lista Pannella, vive con uno stipendio mensile netto di 8.988 euro. Inoltre possiede un appartamento, un immobile commerciale dato in locazione, entrambi nella capitale, un terzo di un appartamento ad Alassio ed è comproprietaria di un box a Bra. Il senatore del Partito Democratico Pietro Ichino scuce 1.200 euro per il suo appartamento romano e altri 400 euro se ne vanno per vivere a Roma, spendendo poco. Maria Antonietta Coscioni, che è deputata radicale, 1.500 euro, l'europarlamentare Marco Pannella defalca tutte le somme destinate al predito e guadagna netti 9.211 euro. E se lo sapessimo di tutti i parlamentari, quanto guadagnano, quanto spendono, quante case hanno, se ricoprono cariche in consigli di amministrazione e quindi sono portatori di ipotetici conflitti di interessi? Lo propone il disegno di legge sulla pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale, ma dal giorno della sua presentazione, il 17 dicembre 2008, hanno denunciato ieri i primi firmatari, Ichino e Bonino, non è stato nemmeno incardinato, cioè non è stato nemmeno attribuito a una commissione per la sua valutazione. È violazione della privacy, hanno eccepito alcuni colleghi parlamentari, ma simili registri sono pubblici in molti paesi europei, in Gran Bretagna dal 1974, in Spagna dal 1985, in Francia dal 1988, in Germania dal 2005, e da quando c'è internet basta un clic. In Parlamento, sostiene Ichino, molti avvocati antepongono la propria attività forense a quella di parlamentare, non è vietato, ma è giusto che i cittadini lo sappiano. Ora, di una legge non ci sarebbe neanche bisogno, perché una norma dell'82 prevede già la pubblicità delle ricchezze, basterebbe estenderla su internet. Viene edito anche un bollettino al Senato, ma è praticamente irreperibile. Non abbiamo trovato nessuno che ci dicesse che l'idea è pessima, dice la Bonino, ma pochissimi si sono impegnati a realizzarla. La missione dei radicali è titanica, compilare un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati in tutti gli 8.101 comuni, le 107 province e le 20 regioni, oltre che i parlamentari. Un gigantesco portale su internet dove trovare stipendi, rimborsi, gettori di presenza, dichiarazioni di redditi e dei finanziamenti ricevuti, registro delle spese comprensive per lo staff. 7 mesi dopo l'avvio della campagna, appena 5 comuni, li citiamo per nota di merito: Torre Orsaia, Tocco da Casauria, Ceprano, Prato e Tor Chiarolo, 4 province, L'Aquila, Chieti, Frosinone e Pescara, e una sola regione, l'Abruzzo, prima che passasse al centrodestra, però nota la Repubblica, hanno aderito all'appello. A Roma sono state raccolte 6.722 firme, tra cui quella del sindaco Alemanno, per spingere la delibera in consiglio comunale. Discussione in aula entro il 24 aprile. Anche a Torino, grazie a 1.900 firme di cittadini, se ne parlerà spesso. Chiamparino si è detto favorevole. Il risultato, intanto, è che dell'anagrafe degli eletti in Parlamento non si sa più nulla. Do un'altra notizia che oggi è soltanto sul Messaggero, ed è una decisione apparentemente shock, sicuramente irritante. Foggia, bus per soli immigrati, decisione shock dopo le risse, il sindaco non è razzismo, è più comodo per tutti. E leggiamo velocemente: una linea di bus cittadini solo per gli immigrati è quanto ha deciso l'azienda Trasporti di Foggia. Gli immigrati del centro di accoglienza non viaggeranno sugli stessi autobus e non attenderanno i mezzi alle stesse fermate. Dopo mesi di difficile convivenza, spesso degenerata in diverse risse, l'ATAF, l'azienda autonoma dei trasporti, ha deciso di potenziare i collegamenti da Foggia verso la borgata della linea 24, diversificando però le fermate. C'è chi già parla di apartheid, ma il sindaco smentisce: nessun razzismo, è solo una soluzione. Vi do infine lettura di due risultati positivi, almeno in apparenza, della crisi, perché indubbiamente in ogni crisi c'è una lettura possibile e positiva. E la prima riguarda il fatto delle auto low cost. Con gli incentivi, segnala il giornale a pagina 25, un'intera pagina dedicata al tema, è possibile trovare un'auto a 2.500 euro. Il titolo è: un'auto a 2.500 euro? Con gli incentivi si può. In questa pagina, a cui vi rimando per la lettura e per la scoperta di alcune interessanti soluzioni, tutti i modelli, piccoli e medi, che grazie all'incrocio tra gli sgravi per la rottamazione e i contributi regionali, arrivano a costare meno di un motorino, e la Lombardia mette anche a disposizione i fondi per i meno abbienti, quindi altro che la Tata Nano, che apparentemente costerà, quando arriverà sul mercato europeo, 5.000 euro. Qui un'auto è possibile acquistarla a 2.500 euro, e sono tutte vetture, almeno quelle riportate nelle fotografie, assolutamente dignitose. Infine, l'ultima notizia, appunto, sul côté positivo della crisi, è a pagina 25 di Repubblica, e questa andrebbe letta, a mio avviso, per intero. Vediamo se ce la facciamo con i tempi. L'hanno intitolata l'happy hour della spesa: il cibo quasi scaduto ora fa il boom di vendite. Una pagina intera scritta da Ian Ermeletti, che è andato a Ferrara. Stanno lì con il carrello semivuoto, hanno già comprato l'indispensabile, il latte, le scatole dei pelati, la pasta e il riso, guardano l'orologio, l'ora si avvicina. Alle 18 ecco il primo annuncio dell'altoparlante: si avvertono i gentili clienti che al banco del pesce c'è uno sconto del 30% per cannocchi e rombi, sconto del 40% per la pasticceria fresca, sconto del 50% per il pane ferrarese. Partono tutti, spingendo i carrelli verso i reparti del pesce, del pane e dei pasticcini. Sono i nuovi clienti temprati dalla crisi, quelli che comprano solo le offerte speciali. Hanno saputo che all'Ipercoop Castello c'è l'happy hour, l'ora felice. Un tam tam gli ha informati che 2 o 3 ore prima della chiusura certi prezzi crollano e bisogna essere lì pronti ad approfittarne. Last minute, è l'ultimo minuto, è low cost, prezzo basso, erano parole che un tempo si usavano solo negli aeroporti per prenotare con poche ore di anticipo una vacanza a prezzo scontatissimo. Adesso sono diventate gli strumenti di sopravvivenza di chi altrimenti non arriverebbe a fine mese. Non abbiamo fatto, dice Carlo Bonifazi, direttore dell'Ipercoop Ferrarese, nessuna pubblicità. Già l'anno scorso avevamo cominciato ad annunciare sconti su certi prodotti, e questo lo fanno in molti, obiettivamente. Ti accorgevi di aver preparato troppe lasagne, nel tardo pomeriggio annunciavi lo sconto. Stessa cosa se rimanevano troppe triglie o branzini al banco del pesce, ma negli ultimi mesi tutto è cambiato. Ci sono tante persone che arrivano proprio dalle 18 o poco dopo e arrivano esclusivamente per comprare i prodotti scontati. È proprio cambiato il modo di fare la spesa. Compri ciò che in casa non può mancare, poi aspetti. Se c'è l'happy hour della bistecca, alla sera mangi bistecca. Se offriamo l'insalata di pesce, ceni con quella. L'importante è non spendere più di quanto c'è in tasca. È sicuramente, temo, un'idea che verrà esportata anche altrove, quindi vi ringrazio per l'ascolto. Passo la parola ad Alessandro Milan e buona giornata a tutti.